ti accorgerai che i sogni sono mondi fantastici. Quando ti accorgerai che il sole ha bisogno di un cielo per vivere. Ovunque tu sia.